se ne perde mezzo. Un uomo del nord. Era un uomo del nord. Si è preso un uomo settentrionale. Era così. Guarda che Sicilia... Giancarlo ci fa la battuta, ma era così veramente. Sicilia dove? Vicinissimo alla Smarva. Palermo. L'Ercara Friddi, diciamo il paesetto, un paesetto, certo, arroccato dove fa molto freddo. L'Ercara Friddi, papà era di lì, andò a fare la guerra nel 36, roba vecchia. Certo. E finì la guerra e lui era fidanzato in Sicilia, dice: ma dove vado? Io rimango qua, c'erano queste ragazze fantastiche. Niente male, eh? Ed si è dato per disperso e così è iniziata la storia. Sei una figlio unico, Salvatore? Siamo in nove. No, figlio unico. No, una cosa... no, ma come no? Aspetta, forse c'è scritto. No, c'è scritto solo come sei attore, autore, partecipa a numerosi lungometraggi, spettacoli teatrali, televisivi, eccetera. Tu sei stato il primo, uno dei primi a utilizzare la voce in una maniera, cioè, anomala, strana. Hai avuto subito una penetrazione importante nel mercato anche televisivo. Sì, fatto... sì. Io lo ricordo con grande, grande. Ma Giancarlo affetto. Sa benissimo perché lui, beh, insomma. Lavorate insieme poi. A parte le MSE, però lui bazzicava. A Smara. Bazzicava un brancaccio a suo tempo quando Gigi faceva i laboratori e quindi ne sa qualcosa. Lui ha fatto i laboratori di Gigi. E il problema mio con la lingua è che avevo tutto un impasto strano di suoni perché papà siciliano, mamma eritrea, cosa ci avevamo una dizione disastrata. Per cui l'hai dovuto studiare? No? Ho dovuto studiare, capito? Ho dovuto fare un impatto abbastanza forte con la dizione. Bellissimo. E oggi parlano italiano migliore di tanti altri. Da sempre, perché poi quando lo vedemmo in televisione l'impatto fu molto più forte, che non era facile vedere una persona, un attore di colore poi nero o quello che sia, siamo tutti di colore, non siamo bianchi, l'altro è giallo, ma mi fa ridere il fatto di colore, che parlasse così bene italiano e ci giocasse nella maniera. Eh sì, perché noi eravamo un po' delle mosche bianche, noi neri, sì. 30 anni fa eravamo mosche bianche, non ce n'erano tante in giro, non si arrivava. E quindi era strano. Oggi no, oggi no. Se magari vedi uno nero come l'Ebano, dice: oh, ma che sta a fare? Ah, fa cosa, eccetera. Sì, oggi è normale. 30 anni fa no, in effetti. Sì, c'ho pure io una cugina cilena adottata che fa: allora si vediamo domani, vedi sta ragazzina che parla con gli occhi tirati, eccetera. Com'era? Me lo fai un esempio di quel telegiornale meraviglioso? Guarda, quel telegiornale, facciamo una sigla qualsiasi, sì, cosa, eccetera. Una sigla è partita. Potrei dire: buonasera, è scattata nella Zanotte la parte di Cortanettato, la tregua in sciroppi dei servizi rubici nell'Italia, cosa affida e lo sciò generale in area presaggiante che alle 20:40 la tettia di sinistra avrebbe presentato, lo trovano anche a destra, sto parte palla al centro, hanno rabirato al Senato per l'evazione del al Senato 589 al 2017. Per questa edizione è tutto, a domani. Mi piace, io impazzì, stavamo con, mi ricordo ancora con la premiata a guardare questa cosa, siamo impazziti, ma poi siamo diventati amici quasi subito. Scusa se mi rivolgo soltanto a te, voglio cercare di parlare il meno possibile con quell'uomo alla mia sinistra. Cercando di evitare qualsiasi tipo di rapporto che mi lega a questo signore. E purtroppo ti lega, purtroppo. Non mi lega troppo. Ci tanto. Sono già stati i rapporti, purtroppo. Sì, se tu pensi che magari io cerco di fare il conduttore e tu sai meglio di me, Giancarlo, che il conduttore fa un passo indietro e non dice io, ma si offre ovviamente volontario a cercare di valorizzare le persone che ha al proprio fianco. Non l'ho mai fatto. No, si fa così. Non puoi dire io, no? Tu ti fai un passo indietro, sei i miei colleghi doppiatori, ma non dico io ho doppiato io, no, tu parliamo di te, eccetera. Però ci hanno legato quasi 350 puntate insieme nella nostra vita artistica. Madonna. Tutte prescritte, per fortuna. Tutte prescritte. non sono più passibili di denuncia. No, ormai è prescritto. 350. Eh sì, perché cominciamo con Pronto chi già. Infatti quando i miei grandissimi autori, che tu poi conosci perfettamente, sia Alessia Navarro che Mauro Meconi, mi hanno detto: beh, tratteggiamo sicuramente le domande e la biografia di Giancarlo Magalli, io dico: guardate che, insomma, attenzione, perché sappiamo anche, so anche altre cose anche lui, per cui bisogna stare attenti a come fare. Lui non ci starà attento, io cerco di stare attento, capito? Per cui nacque proprio con Pronto chi gioca, quando poi nacque la vera avventura di Giancarlo Magalli come conduttore, perché Magalli è sempre stato un grandissimo autore televisivo, cinematografico e teatrale. E teatrale. Perché la tua avventura comincia lì, nel teatro comincia, no, Giancarlo? Tuo papà era un direttore di produzione. Mio papà lavorava in cinema, sì, era cinema. Direttore di produzione cinematografico. E che mi ha dato la possibilità di crescere. Crescere? Nel senso anagrafico degli anni. Bello, l'ho offeso io, perché ragazzi, voi non sapete le offese che ho ricevuto in 35 anni. Però sui sette cinematografici. Poi papà faceva dei film belli, perché papà ha lavorato con Humphrey Bogart, con Ava Gardner. E tu stavi sul set, però. E io stavo sul set e, come ho raccontato innumerevoli volte. Beh, vi racconto. Sono stato sulle ginocchia di Humphrey Bogart. No, ma dai, sì, ma questo io non me lo ricordo. Oh, te conosco da abbastanza, ma è una cosa che non ho mai sentito. In più venivo utilizzato dai macchinisti, che come sai sono persone cattive. Cattive nel senso buono della parola. Ti dei fa amici i macchinisti, esatto, al cinema. Esatto, che mi usavano per cose brutte. Una volta mi dissero: vedi quella signora là? Dico sì, io c'avevo 3 anni, premetto. La vedi? Sì, si chiama Gina. Vai a far vedere il pisello. No! Vabbè che Cruciani ci ha sdoganato, però. E io, vabbè, ma stiamo parlando di un pisello di 3 anni, si può parlare. Sì, sì, un pisello di 3 anni si può dire. Fino a 12, insomma. C'è ancora col pannolone. E io lo feci. No, hai fatto che ne sapevo? Era Lollobrigida. Era Lollobrigida e dice: Gina, ti è? E lei guardò e lei diventò, non fu più la stessa. E lei diventò Lollofrigida, non Lollobrigida. Si sta abbassando. No, è bellissimo. No, ma è vero. Ma la cosa peggiore è che poi siamo diventati amici. Lei è venuta ospite in tanti programmi e io gliel'ho chiesto, non se lo ricordava. Certo. Ma quanti ragazzini di 3 anni ti hanno fatto vedere il pisello? E non ce lo ricordavo. Che bello, hai ospite il bravissimo Salvatore e il bravo maresciallo che voleva fare il corazziere ma era basso di cavallo, dice qualcuno. Okay. Hai fatto vedere il pisello a Gina Lollobrigida. Insomma, Pisellino, 3 anni avevi. Però 3 anni. Ma è bello, no, questa somiglianza neanche remotissima con Raschel, no? Anche perché so. Sì, il corazziere. È vero. Poi lo canta, lo imiti pure bene, Renato. Ma tu sei un bravo attore. Infatti, io la prima volta che lo vidi, Giancarlo imitava il corazziere di Renato. Ma Rascio. Lo imitavo per motivi tecnici, perché la mia mamma giocava a canasta con mia zia. Io ho passato pomeriggi interminabili a casa di mio cugino, io e lui soli, mentre le mamme giocavano, e c'aveva un grammofono con un disco solo, The Raschel. Quindi l'avrò ascoltato 10.000 volte, e alla fine poi io parlavo tutto, buonasera! Era inevitabile. È uguale, me lo fai, mamma, ti ricordi quando ero piccoletto? Che mi ci voleva la scaletta quando a letto, come sono cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Se qualcuno più giovane non sa, prendete Renato Raschel e andate ad ascoltare. I grandi non bisogna dimenticarli. Tu dici: sono dimenticati i ragazzi? Sì, qualcuno. Tranne quelli che il cinema, cioè Sordi, Totò, Manfredi, Gasman, Tognazzi. È difficile dimenticarli perché i loro film continuano ad andare in onda. Però certo, tanti altri rischiano un po'. Tu vanti origini sarde. Come? Levanto, sì, nel senso che ne sono contento, da parte, certo, di mamma. Mamma era sarda. No, mamma era nata a Roma, papà era nato a Roma, i genitori di mamma erano sardi. Di dove? Della Gallura, cioè settentrionale, insomma. Sì. Diciamo. Settentrionale. Avete questo mischiume. Sei nipote del politico pluriornato Pietro Lissia, magistrato ed esponente della storia politica italiana fino al 1944. Vedi, questa cosa non la sapevo. Cioè... Ma sì, era il fratello di mia nonna. Era un senatore, era stato vice sottosegretario alle finanze, presidente, ma tutte cose che ho saputo dopo. Sì, per me era solo un signore che veniva a cena la sera. Esatto, che tu chiamavi zio. Ogni sera alle 7 in punto suonava e veniva a mangiare. E veniva a mangiare da noi, perché era solo, era rimasto vedovo, ma era un tipo bizzarro, Sì, eh? Assolutamente strano. Lui abitava vicino e una volta chiamò la sorella, mia nonna, e gli disse: Caterina, sono molto preoccupato per Emma. Emma era la moglie. E dice: perché? Perché non mangia. Non mangia, io gli preparo le cose, però non mangia. Mangia poco, poi sputa, non lo so, c'è qualcosa che non va. Non andò a vedere e zia Emma era morta da 3 giorni. Quindi... no, è pazzesco, si mi fai ridere su cose che non mi ammetto. No, ma ero capito, ma era così. Ma lui non se n'era accorto. Era morta da 3 giorni. Mi sembrava strano che, ecco, che non mangiasse. Ecco, avete capito che ci aspetta per la prossima ora? Perché voi starete un'ora insieme. Ah, sì? No. Sì, Per quello che ci pagano, anche 2. non c'è una lira, non date retta a questo signore. Marino, c'è tutto, tutto lo porti come compagno, ormai lo porti tu in giro, perché sì, non è che poi c'è da solo. Percepisce l'assegno. C'ho proprio un assegno mensile, esatto. Quindi cioè, eseguo pedisseguamente quello che mi viene richiesto di fare. Esatto, sei tu che lo segui a lui in trasmissione, è lui che porta te. Va bene, tra pochissimo voi sanatomi, Giancarlo Magalli e Salvatore Marino, e purtroppo anch'io. A tra poco. Beda no. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono Voice Anatomy, pensa, dico, ma, no, ho capito, magari prendi un bel fiato. Ma non me puoi far sbagliare l'inizio, l'intro della trasmissione. Sono così le... si capisce meglio che sei te. Sono le 15:46 primi e 29 secondi, fortunatamente c'è anche Salvatore Marino che accompagna Giancarlo Magalli in tutto e per tutto, anche durante la pubblicità o durante il traffico. Giancarlo ha raccontato altre vicissitudini dello zio magistrato che viveva con una sveglia, no, che funzionava solo senatore. Che funzionava soltanto se appoggiata al contrario la sveglia. Solo coricata, solo sulla pancia. Se la mettevano, no, normale si fermava. E lui pure si fermava. C'è il tempo per lui. Il tempo non passava, non veniva. Però c'è un'altra cosa molto interessante che io non conoscevo. Sei stato compagno di scuola di Luca Cordero di Montezemolo e di Mario Draghi. Cioè, sì. Che è successo? Perché tu poi... Scusami, ma perché io... No, no, nel senso, lì come se io fossi compagno di scuola, che so, di... che ne so, Rocco Siffredi e Tenda Lacci, ma sono uscito fuori io, insomma, cioè, capito? Allora dici, ma perché tu no? Se fossi stato con Rocco Siffredi, credo che alla prima ricreazione da andare, la prima volta andate in bagno insieme, no, lasciavi la scuola. No, no, io è inutile che offro il fianco, se io so, credino io, Salvatore, sono io. Ma che ne so, eravamo là e però è bella sta cosa, ci siamo ritrovati nella stessa classe, io, Luca, Draghi, anche Gianni Di Gennaro, che poi è diventato capo della polizia, e Abete, eravamo tutti nella stessa classe. E loro hanno preso una strada che poi insomma tu hai disertato. Loro hanno preso una strada, soprattutto di cose che ognuno di questi ci può rovinare. Vabbè, però insomma, simpatici amici. E poi io sono dovuto andare via da quella scuola perché il preside non era d'accordo sul fatto che io chiudessi le aule scrivendo aula chiusa per disinfezione. Sì, non è carino. Cose che facevo per allegria e soprattutto per non fare il compito in classe. E sono dovuto andare in un'altra scuola dove, stranamente, lì non si parlava di... No, nessuno è diventato un politico. No. No, i miei compagni della seconda scuola erano Dario Argento, Cristian De Sica e Carlo Verdone. Però è lì, allora, i Natali veri sono stati lì, lo stai d'indorso della tua vita. Come? Ha sdirazzato in quel modo. Erano compagni tuoi, Dario Argento. Dario Argento era più grande sì. E Cristian e Carlo erano un po' più piccoli, però eravamo tutti là nello stesso liceo. Ma pensa voi quante cose hanno unito poi Cristian con Carlo, perché la moglie, sì, la sorella di Cristian sposato... ma quello è nato a scuola perché lo prendevano un po' in giro. La sorella di Carlo ha sposato Cristian perché Cristian era un pochino, lo prendevano in giro perché lui era il figlio di Sica. Beh, era un po' così, cioè. E allora i compagni ci scherzavano e Carlo si impietosì, diciamo, e disse no dai ragazzi, lasciate in pace, è un amico mio, lo difese e Cristian gli fu molto riconoscente, diventarono amici, cominciò a frequentare casa, conobbe Silvia e via, il resto è storia. E tu hai cominciato subito, come hai cominciato? A parte gli scherzi, insomma, tu hai cominciato subito ad essere un autore immediatamente? No. Sei stato sulle gambe di Humphrey Bogart, hai fatto vedere quello che hai fatto vedere a Lollobrigida, Totò, tanta roba. No, Totò, siccome appunto il cinema per me era un'area di famiglia, c'ero cresciuto, il set era casa, insomma sentivo un'aria di casa. Quando ero bambino veramente veniva il regista col vasetto, fai pipì forza, perché io dormivo là, poi veniva il direttore della fotografia a darmi la pappa. E quindi poi volli fare il cinema quando ero ragazzo e mio padre cercò di convincermi a lasciare perdere perché lui aveva provato quanto fosse aleatorio. Difficile. Poi invece disse vabbè, lo vuoi fare, fallo. Parlò con un suo amico produttore che era poi il genero di Totò, Gianni Buffardi. Uh-huh. E Gianni dice: ah, come no, mandamelo, lo metto nel set, lo metto nella troupe, così comincia a vedere, impara, fa, eccetera. E io ho fatto tre film con Totò, in pratica, come aiuto vice aggiunto segretario. Sì, caportare il caffè o quello che sia. Però lo stavo là, l'ho visto, ci ho pure parlato. Quindi sono piccole invidie, nel senso piccole grandi invidie. Gli altri mi mandavano, va a dire al principe che si gira. E allora io andavo, dicevo: principe, ha detto il regista che si gira. E lui dice: va bene, vengo subito. E questo è il massimo che mi ha detto. Com'era sul set, Totò? Molto solitario, molto sì. Solitario, stava sempre in un angoletto col cappotto sulle spalle, la sigaretta e gli occhiali scuri, perché aveva problemi con gli occhi, la luce gli dava fastidio. Aveva questo cugino segretario, si chiamava Edoardo Clemente, che lo accudiva e gli mostrava il set prima delle riprese, gli diceva: allora Antò, devi entrare qua, poi vedi qua c'è una sedia, ti devi sedere. Poi si spogliava di tutto questo e diventava il Totò che conosciamo, però. E lui imparava il set a memoria, ma un uomo, ti ripeto, cieco. E quando poi c'era il Ciak, tu dicevi: ma questo ci sta più in giro. Camminava, evitava gli ostacoli, scriveva, Totò Diabolico addirittura giocava a biliardo. Era un grande, era straordinario, prendeva una vitalità quando si girava. Tu come sei cresciuto, Salvatore? Nel senso, tu conoscevi il nostro cinema, sei venuto subito in Italia, quanto siete stati fuori o... Guarda, Asmara, dove io sono nato, considerano una sorta di succursale italiana. Era come andare, sì, che ne so, in Sardegna, vado a Cagliari, la stessa cosa, certo. Perché insomma, c'era una comunità italiana nutrita, 170.000 italiani, certo, con le rispettive famiglie, quindi era una roba molto esponenziale, molto... certo. Lì parlano italiano pure i sassi, quindi, perché ovviamente è un'ex colonia italiana, quindi, e quindi arrivava tutto il cinema italiano doppiato. Poi invece il cinema straniero, quello che qui viene addoppiato, invece veniva in originale sottotitolato. Quindi io mi sono visto praticamente tutto il cinema. Sottotitolato come nella nostra lingua? No, sottotitolato sottotitolato in francese, in arabo e in qualche altra lingua che, certo, non mi ricordo. Quindi i fotogrammi erano praticamente tutti scritti. Esatto. Dovevamo fare capolino tra una lettera e l'altra per vedere le scene. Erano tutti insieme i sottotitoli. Tutti insieme i sottotitoli. Oh, mamma mia. E quindi il cinema l'ho un po' vissuto così, quell'italiano arrivava ovviamente in italiano direttamente. Poi ho visto anche Totò nel 66. Papà mi portò a vedere a una rivista, perché venivano tutti gli attori noti italiani, andavano a fare le tournée all'estero, certo, per le comunità italiane all'estero. E io vidi Totò nel 65, nel 64, insomma, me lo ricordo vagamente. Ma tu hai capito subito volevi fare questo mestiere? No, dopo, alle medie forse. Quando sei venuto in Italia? Italia nel 75. Io avevo 15 anni, direttamente a Roma. Col gommone, no? Col gommone, sì, sì, siamo stati. Da cancellare, vedi quanto è disincantato, Magalli, terribile. Già mai fatto litigare con i calabresi? E poi non sei stato così duro, poi lì è stata. Ma non era proprio vero, non era vero, se lo so inventare. Si inventano di tutto. Ma sei giornalista lì perché riportano magari. Sono degli zozzoni, questi sigle, siti di internet che ognuno si rimbalza la notizia. Esatto. Cambia... E non sono siti giornalisti, sono gente che cerca i click per guadagnare. Sì, poi chi l'ha sentito veramente, pochi, quelli che leggono sono tutti, e il passaparola è enorme. L'altro giorno in radio mi chiedono: che ne pensi di Maria De Filippi a Sanremo? Io ho detto: ma mi incuriosisce, perché chi lo sa come... Cioè, Maria è molto minimalista, esatto, come stile, è brava, bravissima, però è molto minimalista. Quello è un programma ridondante, rumoroso, come si metterà in quel... Mi fa curiosità. Questo è diventato... La De Filippi a Sanremo non funzionerà. Non l'ho mai detto. Esatto, mai. Esatto. No, bisogna stare attenti a questo. Cioè, sì. Tu dici: dove vivi? A Roma. Scusate, vado un attimo al bagno. Pino ha detto: Roma cacca. Cioè, non è così. Sì. Non è così. Roma mi fa. Esatto, non è così. No, succede anche questo. Che è la pausa lunga, questa lunga, insomma, 6 minuti. Abbiamo GR. Ho imparato da poco a dire GR, perché dici sempre TG. Abituato alla televisione. Certo. Puoi dare la linea tua al GR? GR, sì, dobbiamo dare. Passiamo a questo punto la linea al GR. A dopo. No, dito nella maniera tua. Passiamo la linea al GR per questa edizione tutta, avrò tasta banza. A dopo. Benissimo. Okay. E allora noi torniamo fra poco, sempre con l'amico Giancarlo Magalli e Salvatore Marino, e ci sarà anche una telefonata del bravo comico e amico di tutti noi, che è Dario Cassini. Ah, hai capito. A tra pochissimo. A tra poco. Sono Giugia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì, e siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Venerdì 20 gennaio 2017. Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi due secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio alle 17.50 su Radio 24. Voice Anatomy. Eccoci, signori miei, 16:06 minuti e 53 secondi. Alla mia destra Salvatore Marino e alla mia sinistra Giancarlo Magalli. E mezzo a noi Pino Insegno. E Pino Insegno che sta proprio al centro. No, in mezzo, gli ho chiesto, no. Tu hai due figlie, no? Io ho due figlie femmine. La prima femmine. Quanti anni ha e tu come mi hai risposto? La prima è più grande di me, quindi non, non lo dico più quanti anni. La prima, no, ma è vecchia, ma insomma, la posso prima dire che ho una figlia? No, no, la seconda c'è, però c'ha già 22 anni. La 22 anni mi farà un po', pure lei sarà più grande di me, però per ora ancora. Tu, Salvatore, hai figli, hai qualcosa in giro per il mondo? No, quello chi lo sa, no, ma non lo so, no. Allora l'hanno sterilizzato. Insieme al gatto. Però, ma non è così. Ma sì, dice, lei vuole entrare? Vuole entrare? No. Va fattala. Nove fratelli, dai. Allora, abbiamo al telefono un carissimo amico, collega di tutti noi, che è Dario Cassini. Dario. Oh, Dario. Dario. Vivi alla grande San Diego. Vivi alla grande San Diego è una follia di un mio personaggio del doppio, che è Will Ferrell. Lui ogni tanto mi chiede di fare questa frase. Mi scherizzo in qualsiasi orario, okay. Mi chiedo di farlo davanti a dei miei amici all'aperitivo. Diciamo che ci serviamo delle amicizie private per beni pubblici. Esatto, no, ma anch'io ho utilizzato anche per rimorchiare dei miei colleghi doppiatori, insomma. Ti faccio parlare con Roger Rabbit e tu chiami Marco Medico. Senti, per favore, gli fai la voce a Roger Rabbit mettendo il nome Stefania dentro, ti prego. O i bambini per farli mangiare in qualche modo, chiamare Buzz Lightyear piuttosto che non si fa, Cassini, tu non hai per mai un amplesso anche di durata poi ridottissima. No, ti passo un attimo De Niro. Vi siete identificati sessualmente, perché si è parlato di un coniglio e voi avete parlato d'amplesso, quindi vi mettete a quel livello di velocità. Lo so, ma se li sommi se viene fuori Pino Insegno, se li sommi. Cassini, tu sei andato a vivere nella Bellumbria, ti sei ritirato lì perché lavori tantissimo, però te ne sei andato lì a vivere. Ma io me ne sono andato lì, che è la bellissima, straordinaria, la miracolosa città di Roma, ve l'ho lasciata con le chiavi da 10 anni, perché esiste una regola vigente tra i miei fratelli Marco editore e Riccardo autore, e che si dividono il Tevere. sono due pantegane, uno sta al ghetto e un altro sta a Trastevere, e loro sostengono che lì significa abitare a Roma. Io ho una casetta a Roma, ma che è all'Abaro, vicino casa di Roberto Ciupoli, che se non erro dove ma ha cambiato, sì, ma cambiato. E lui sostiene che se stai all'Abaro non stai a Roma, devi via la macchina e fa un viaggio fino ad arrivare in città con la diligenza, e non sbaglia. No, dicono tutti che stanno a 20 minuti da Roma quando abiti sulla Cassia, come Giancarlo. All'Abaro sei fuori Roma. Sto a 20 minuti da Roma, ma io sto a Monteverde, ci metto 20 minuti per arrivare a Trastevere e ci sto sopra. Cioè non si capisce com'è i 20 minuti. Da quel punto di vista è impressionante. Leggevo per una ricerca un dato per il quale, secondo loro, questi loro anonimi, Roma avrebbe circa 3 milioni di abitanti, poco più, ai quali mi sono permesso di fare notare che si devono aggiungere 1,5 milioni di turisti, 1,5 milioni di pendolari, 2 milioni di studenti e altri 4 milioni di abusivi, per cui Roma ha gli abitanti di Calcutta, per come vedo io. Senti, ma te le donne sono al centro della tua vita o solo dei tuoi spettacoli, Dario? Allora, io figlio piccolo, vi ho sentiti parlare delle vostre progenie, ma io ho un bambino di 13 anni e mezzo, secondo lui, secondo il medico, è un perfetto quarterback, pronto per andare a giocare e guidare già anche ubriaco di birra. Adesso io insegnerò a mio figlio che, avendolo messo al mondo a 48 anni, prima di andare sotto padrone sentimentalmente bisogna prima vedere cosa c'è intorno. Però sì, mi hanno dato da mangiare, perché il comportamento femminile è veramente un pozzo senza fondo. Sì, sì, io mi provo, dovendomi vantare, provo a dire che lo tratto in maniera originale, ma non è difficile. Insomma, qualcuno sostiene che le statue sono già dentro al blocco di marmo. Ecco. Sì, Michelangelo diceva. Sì, per descrivere un comportamento femminile basta veramente esserci, voglio dire. Mi pare di aver capito anche dalla voce che riconosco al tuo lato, che insomma siamo uomini d'esperienza, se non siamo stati vessati noi dalle donne, chi lo è stato? Ma che scherzi! Quando si chiama l'avvocato adesso è qualcosa. Un contadino bellissimo che ha i proverbi più belli del mondo, che secondo me ha poi sanatomi anche gratuitamente. Magari. Io te ne registro una settimana. Tra questi abbiamo della signora Giselda: la femmina è come lo fuoco, va stuzzicata ogni poco. E avendo io un termocamino che mando avanti da casa, so quanta veridicità ci sia all'interno della teoria. Poi ci aggiungiamo chi de Pino, chi de Noce, ognuno alla sua croce, perché la volevo dedicare ad Alessio. Dottor Magalli, lei deve sapere questa cosa, che il signore che ti mette il timbro nell'ufficio del comune di Todi è uno che ti racconta solo quella, sempre ad un loop, però io ogni tanto ci vado ciclicamente per godere. Sentite che bella, avrei tanto voluto scriverla io, sentite che bella battuta. Dimmi. Sapete perché Dio, non un qualsiasi, Dio ha inventato prima l'uomo e poi la donna? No. Riflessione, perché non voleva consigli su come doveva fare. Ci sta, Questa è saggezza popolare, sono gag informali involontarie. I famosi delle voci di voi sanatomi, siete immuni al raffreddore, perché io sono l'unico che sembra il dottornato. Amico mio, sentite qualche trasmissione. No, sentite qualche trasmissione fa, poi sai, meglio di noi, devi andare in scena in qualche modo e te fai qualsiasi cosa. Ma non ce l'hai la febbre, ma non è la febbre, che io praticamente doppierò Mister Catarro nel prossimo film. È bello perché siamo tutti ridotti. Sì. Beh, è dura quest'anno. Federica, la mia badante, perché avendo 15 anni meno di me, ne ho scelta una che possa in coppia con mio figlio spingermi, perché io voglio fare il Bob a tre con loro che mi spingono quando io sono 90 anni, questo è il mio progetto di vita. Io pure ho fatto la stessa cosa. Senti bene Pino, Giancarlo, noi ci siamo incontrati una volta, ti do del tu come fanno quelli famosi, come voi. No, senti bene, lei ha deciso di costruirti questa casa per la quale è chiaro che adesso mi viene a cercare il fisco e mi farà pagare l'IMU per la casa di plastica di mio figlio, perché alle dimensioni del Pantheon, che dato, essendo in questo momento il clima di Todi tra neve e pioggia alternate, quindi una media di zero poco più, io ho ribattezzato la Bronco Polmo Casa, lei vuole farlo giocare per mettere alla prova le sue difese immunitarie. Questa è una cosa brutta, degli anticorpi. È una persona cattiva, non no, buono, sta buono, che poi davvero ti chiama qualcun altro. Se voi volete io vi dico delle cose, dei motivi validi per ascoltare il mio verbo, perché è straordinario. Quando una donna che aspetta un figlio da te ti dice: mi trovi grassa? stavo aspettando se facevi o se già ridevi. Hai fatto, no, aspetta, non aspetta. Non sei preparato, né tu né il signore, quello bello. No, no, no. Io aspetto, allora, con rispetto la battuta. Quando una donna incinta ti dice sono grassa, non devi agire d'impulso. Che devi devi fare? Riflettere, perché sì, qualsiasi cosa dice è sbagliata, come sai, da esatto, se le dici no, non ma si vede. No, ma no, lei non te crede e si arrabbia moltissimo. Esatto. Se le dici certo, non vedi partire la testata e ti trovi come Nino Manfredi, c'erano tanta amati, ma che sto di dietro all'ambulanza, fai così. Se qualsiasi cosa tu dici sei messo alla prova duramente. Devi fare è, quando ti dice mi trovi grassa, le dici rispetto a che e scappi con la moto. In gravidanza è importante avere una motocicletta con motore sempre acceso. Senti Cassini, so che per febbraio, San Valentino, sarai a Roma a teatro, per cui sì, ma anziché stare a casa a litigare, esatto, vengono gli uomini e le donne, facciamo questo famoso auditorium della conciliazione, sì, che non sono esattamente sette posti a sedere, no, perché no, dormo no, già da un po', e un paio di date fatte bene con un grande ausilio di immagini. Spiegherò il successo di Terence Hill, perché io devo scusarmi con il mio pubblico per aver fatto Don Matteo lo scorso anno, hanno bisogno che io spenda la mia parola. E ci saranno una serie di cose, tra le quali la scelta del bambino, cioè c'è un'ora e mezza inedita. Allora vieni personalmente da quel dell'Umbria in questa radio poco prima di debuttare, staremo insieme fisicamente. Come dicono qui, c'è Mangaria, Pinonze. Esatto, ti aspetto. No, questo è più abruzzese questo qua. Senti un po', va bene. Altro per me parla il catarro. No, un ottimo ascolto a tutti quanti i vostri ascoltatori, che voci vibranti come le vostre ci hanno bisogno manco del microfono, se si affacciano dalla finestra, sentono da casa. Dario, un abbraccio forte a te e alla tua famiglia. Grazie, sentiamoci presto. Ciao Dario. Dario, e anche voi, a tra pochissimo. Voi sanatomi. Sanatomi. Eccoci signori miei, siamo qui sempre con Salvatore Marino e Giancarlo Magalli, abbiamo salutato da poco Dario Cassini, visto che è una radio che si occupa di economia prevalentemente durante la settimana, giustamente Salvatore Marino ci dà un'esclusiva a proposito di una notizia di economia, se non sbaglio. Sì, ne era raccontato appunto, sono degli aggiornamenti, sì, c'è l'aumento dell'Istat, è stata fregata, è stata guardata, che è stata fatta, c'è un ribasso del 3% alla borsa di Milano, dei titoli di Stato, dei BOT, dei BTP, dei CCT, dei Rintintin e Cincin dell'euro, che chiude a 1.008 alla borsa di Tokyo per la serie Tokyo per Tokyo euro perdente. Diamo retta delle maggiori azioni trattate in borsa questa mattina: le Pirelli Piselli 8.1, la Parmalat non par guarita, volano i titoli legati alle credit card, Mastercard, carta amica, mica stiamo a perdere tempo, carta Visa, carta sì, carta no, carta vince, carta perda, arriva la madama, copri tutto e gioca a dama. Questa è una. Grazie. Ti ringrazio Salvatore, che si fosse messo in ascolto adesso non era Sebastiano Barisoni ma Salvatore Marino che dava le notizie di economia. Sì, no, ma è giusto, se hai delle altre, cioè non è che quelle vere sono più chiare, no, e ma adesso telefono Sebastiano Barisoni con Roberto Napoletano e dico Pino Insegno, per te Radio 24 finisce qui. Invece tu, stiamo parlando di tutto, la gente sa quello che hai fatto, quello che stai facendo e non ne parleremo, ma c'è il doppiaggio che qui è il core business di questa trasmissione, è la voce, è una voce inconfondibile. Da quale parte della giungla viene? Eccolo lì, ma tu te rendi conto, cioè, te se l'ho detto, io però partirei dalla prima interpretazione del doppiaggio. Ma io due ne ho fatte. Due, dalla prima, infatti partirei dalla prima che era Hercules. E poi arriva alla seconda. Esatto, poi arriverei alla seconda, che Hercules è stata... Hercules che è una casa romana. Disney, sì, sì. E mi chiamarono per doppiare un personaggio carino, divertente, che era Filottete, che in originale era doppiato da Danny DeVito. Io mi sono chiesto, ma perché hanno pensato a me? Voce molto, dici. Ma lui è piccolino, vero? Cioè, però. Vabbè, tu non sei certo uno che c'ha. Io ho doppiato quello, poi adesso al libro d'aggiunta uno scimmione. E allora mi sono domandato, ma chiedono le foto prima di assegnare? Sono gli americani che decidono poi. Ecco, vogliono la fotografia. Cioè, qui decidono chi sarà il talent, eccetera. Poi, a parte questa è una parola che io non amo profondamente, perché noi e gli altri non sono talent, quelli che doppiano. E ma infatti il talent è una cosa. Tu hai detto una battuta bellissima, ma che sì, il doppiaggio. Ma io chiedo però scusa, sì, ai doppiatori ogni volta, perché il talent pare che è una cosa, è uno che fa un piacere. E il talent è un poveraccio che cerca con molta buona volontà di fare il meglio possibile il lavoro che i doppiatori veri fanno con molta professionalità, certo. Quindi dico sempre, il talent è un po' come Paris Hilton in mezzo alle mignotte vere, diciamo. È un po' quello. Oddio. Che non è un accostamento un po' azzardato. No, per dire, insomma, no? Cioè, lei lo farà benino, ma quell'altro lo fanno meglio. Questo è il discorso, diciamo. Mauro Megori ha fatto una standing ovation da solo. Ha urlato perché per lui sei il suo eroe. Per ecco. Cui lui aspetta questo, ma aspetta che ci arriva qualche telefonata. Fortunatamente Cruciani ci ha sdoganato, per cui si può. Sì, ognuno. No, ma però fa ridere, no. Non c'è niente di male. Non c'è volgarità. Sono parole di uso comune, doppiatore si può dire. Non è una cosa. Oddio mio, magari. Io credo, quando l'ha detta sul palcoscenico del Gran Premio Internazionale di Doppiaggio, io non ce volevo credere. Ne hai detta pure un'altra quando c'è. Voi non dovete mai invitare Magalli alla fine a teatro, soprattutto per uno che come me è abituato a ringraziare gli amici, i colleghi che vengono alla prima, perché poi rischia che la battuta che ti dice lui dalla platea sia più divertente dello spettacolo che hanno visto fino a poco tempo prima. Lui quando dice, quando non sai cosa dire a una persona, fai il segno dell'ok, guarda, e che dici orrendo. Io ti dico una cosa, noi siamo, cioè, ormai quotidianamente e lui ha una velocità di elaborazione della battuta che è impressionante, è non, cioè, ma poi è senza soluzione di continuità, capito? Quasi, cioè, da falsa partenza. Beh sì, è una cosa incredibile. Io poi lo sa benissimo. Qualcosa ci dovrò avere, no, sennò. Mi dicono, Salvatore, com'è stato fare il verso di Indovina chi viene a cena in Abbronzatissimi? Capolavoro, qualcuno urla. No, guarda, quel film stranamente ha avuto un po' un successo strano, nel senso che in sala non andava a vederlo nessuno. niente. Ha avuto tutto un televisivo il successo di quel film, lo mandano in replica di continuo. E io stavo facendo uno spettacolo a teatro che era momentaneamente solo. Bruno Gaburro, che è il regista del film, venne a vedere lo spettacolo e mi disse: ma perché non viene a fare sta cosa con Gerry Calà? Magari la scrivi Gigi te. Gigi Andrea c'erano pure, chi c'era? No, c'era Teo Teocoli, c'era la Parietti, Gerry Calà, compagnia bella. E io scrissi insieme agli sceneggiatori la scena che, sai, l'episodio mi riguardava, e ha funzionato, insomma. Io andai a vederlo in sala e non c'era nessuno, eravamo in 10. Tu mi dici che ho fatto mezzo destro, mezzo sinistro, doppiato in Veneto da un altro, per cui penso un po' a te. Tu hai fatto però Liguria. Sì, ma io eri nudo. Quando mi fidanzai con la mia seconda moglie, è scappata già anche lei. Sì, stiamo alla ricerca della terza. No, non mi posso più permettere economicamente matrimoni. La portai al cinema perché era appena uscito un film in cui recitavo anch'io. E quindi un po' fiero di questa cosa, la portai al cinema. Era il Brancaccio che ancora faceva dei film. Sì. E lei, mi ricordo, arrivammo davanti al Brancaccio e dissi, ecco, e c'era questa grande scritta, il titolo del film era Uccelli d'Italia. E lei già era un po', cioè, voleva tornare a casa. Sembra il comune senso del pudore. Tornare a casa. Era un film invece degli Squallo. Che faceva anche ridere. In sala eravamo 6. Ecco. 6. Anche Herbie Bitaro se n'era andato. Non ha funzionato. Ha lasciato la cassetta, ha scritto servitele da soli. Io me ne vado. Come dico sempre io, abbiamo fatto dei film indimenticabili di Rete 4. Faranno tutta la serie. Perché pure io devo dire che a nove non si dice io. Ma mi accomuna a questa realtà quando feci pure in punta di piedi un film che andò a Venezia e cemenarono sì, non cemenarono a livello critico, cemenarono proprio contatto fisico. Sì, ci fu proprio una cazzottone, volarono schiaffi, insulti. Giustamente, io perché non è mai uscito in DVD, se non lo pubblicherei. No, ma lascia perdere. No, bisogna pubblicarle certe cose. Il coraggio, mentre sono orgoglioso di mezzo destro, mezzo sinistro, di altre cose proprio no. Senti, però abbiamo parlato del doppiaggio, per cui sentiamoci c'è un momento dove lui doppia Filottete in Hercules. Hey! E mentre Hercules era il povero Raul Bova, se non sbaglio. Era Raul Bova e Megara era Veronica Pivetti, bravissima. No, lei è brava, molto brava. Lei sì, prego. Ah, anche Raul. A lei sì. Vai. Fermola. Zeus è tuo padre, vero? Zeus, il pezzo grosso, è il tuo papà. Mister Fulmini e Saette, mi leggi una favola, papà? Zeus. C'era una volta. È la verità! Per piacere! E così vuoi diventare un mito? Un eroe! Ho già avuto 1000 idioti in prova proprio come te. e uno dopo l'altro quanti fiaschi, mai, e quante notti insonni. Ma basta con le scuse, se è un figlio famoso che mi chiede di provarci ancora, risponderò così. Ci sto. Ossia, lo farai? Hai vinto. Non te ne pentirai, Phil. Oddio. Quando cominciamo? Cominciamo subito. Oio. Ma che bellezza è, dai. Però rimarrà per sempre. Disney è questo, che rimani tu. Come l'hai fatto benissimo. Sì, sì, la voce. Riuscì a trovargli una molto voce carina. Simile, no. E io pure, a me non mi chiamano per rimorchiare come a te, però no, mi chiamano. Esatto. Mi chiamano le mamme, mi dicono c'è mio figlio, dai, gli fai filo. E io al telefono. Ehi, che credi che abbia insegnato a Giasone a volare, Cleopatra? Ecco, devo fare questa cosa. No, questo è vero, però volevo godermi poi il libro della giungla nell'altro blocco, perché carino. Voglio parlarne bene. Io stavo leggendo così, perché il tuo curriculum è veramente pazzesco. Qualche cosa mi riguarda contemporaneamente, io devo dire, lo dico sempre quando posso, di fronte alle persone, per raccontare chi è Giancarlo Magalli. Noi cominciamo. Le parti che ti riguardano nel mio curriculum sono sì, quelle cancellate. No, ci sono tutte. Quando cominciamo televisione in maniera ufficiale, come premiata ditta, prima eravamo l'Allegra Brigata, facevamo il GB Show, eccetera, eccetera, ma ci presero Magalli e Giancarlo e Boncompagni, un altro grandissimo, per fare Pronto chi gioca, il quartetto comico, perché nasceva il trio in quel momento. Allora Boncompagni ha detto facciamo un quartetto, perché dall'Allegra Brigata esageriamo. E sono le prime 200 puntate che abbiamo fatto insieme. E Giancarlo nacque lì come conduttore, perché la Riga Bonaccorti c'è un momento di defaillance fisica, un problema importante, e Giancarlo cominciò a condurre, in maniera pazzesca. Ce lo ricordiamo tutti. Da lì l'esplosione. E l'anno dopo, come sempre succede, grande successo, ovviamente lì a mezzogiorno si facevano 6-7 milioni d'ascolto, era pazzesco. Altri tempi. Sì, sì, però c'era anche una televisione diversa, era scritta da autori, e tu eri un autore, no? Non eri uno scalettatore, eri un autore come tanti altri del tuo periodo. Ci buttarono un po' via, ci scansarono per motivi che esulano dalla mia comprensione, ma Giancarlo ci riprese sotto. Ma che noi capiamo benissimo. No, però tu per Domani Sposi, che è stata la madre di tutti, ci hanno fatto 1000 spin-off, come si dice nelle fiction, 1000 programmi da quel Domani Sposi quotidiano preserale, e ha voluto la premiata ditta assolutamente al suo fianco, nonostante, pensate, Ciufoli, non eravamo ancora così famosi, Ciufoli non poteva le prime 5 puntate perché stava girando un film. Allora Giancarlo si è inventato, pur di averci lì e tenerci con il capostruttura, di fare una sagoma cartonata di Ciufoli per dire torno presto. E nessuno si è accorto che era differenza. Esatto, per cui non finirò che ringraziarlo, e poi da lì tante altre cose. Poi tu veramente hai fatto tutto. Abbiamo fatto tante cose insieme. Tu, sì, ma tu ne hai fatte tantissime, veramente. Nonostante tutte questo, sì. Sì, tante, tutte. Sei andato spesso anche in sostituzione di persone che avevano abbandonato il sabato sera. Per un periodo, detto, sì. C'è stato un periodo da tappabuchi, non eri male. Un numero 13 di Serie A. Cioè, scappava Montesano e arrivavi tu a Fantastico. Scappava quell'altro e chiamavano a me. Tu e Baudo in prima serata, in un programma straordinario, insomma. Tornerete insieme tu e Pippo? Avevo sentito delle cose... Beh, adesso già ci rifrequentiamo, perché sì. Lui viene, ora no, ritornerà a marzo, il mercoledì da me ai fatti vostri, e parliamo, raccontiamo insieme un po' di storia del varietà di una volta. Però sarebbe bella una seconda serata tranquilla, faciosa, fra voi due al bar. Io l'avevo proposta, la riproporrò. Non sarebbe per niente male. No, non sarebbe per niente male. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, ovviamente, Voi Sanato. La TV dei ragazzi. Voice Anatomy. Ciao ragazzi di Voice Anatomy, ma quanta allegria sana e divertente c'è oggi in studio. Sorrisi a voi da Francesca e Pino il Segugio. Lei è un cagnolino che si chiama il Segugio. Sì, sì, è una cosa che hanno scritto. Sì, cominciato così. Voto la battuta di Magaliotto. No, sono saltato tanti messaggi di complimenti, eccetera. Cerco qualcosa di divertente qui a Pino. Gli dici al Sor Magalli se mi può fa urlare il cappotto, mi hanno rubato il cappotto con la voce di Rachel. Perché il cappotto? È un film famoso che fece Rachel, tratto dal cappotto di Gogol. Vedi, l'ha scritto il romano, ma il riferimento è altamente culturale, cioè non ha detto... È stato un bellissimo film in cui lui faceva un ruolo drammatico di questo impiegato che riesce a comprarsi questo cappotto e poi glielo rubano. No? E come la dice? Come la direbbe? Il cappotto! Mi hanno rubato il cappotto! Se tu non hai fatto doppiaggio, vero Salvatore? No, no, io feci un po' di cartoni animati, sai con chi? Ma ti parlo del 79-80, con Gigi Reder. Gigi Reder. Con Gigi Reder alla pacca, la pacca. Il commendator Filini. Ragionier Filini. Il figlio era un bravissimo assistente di doppiaggio, Emilio Schroeder, perché poi il cognome era Schroeder. Era Schroeder. Schroeder il cognome di Reder, sì. Pensate, era Gigi Luigi Schroeder. Come Bombolo si chiamava. Lechner. È vero, Bombolo era Lechner. Franco Lechner. Lo sai fare, Bombolo, tu? Che tu mi dici? Mi hanno rovinato Castellacci e Pingitore. Stavo tanto bello a vedere le padelle. Annaggia li mortali loro. Così è. Che poi Giancarlo, quando ci raccontava, lui, tu sei uno degli autori di quella straordinaria trasmissione che ha lanciato i più grandi comici tuttora in circolazione e che hanno segnato veramente il cinema, il teatro, la televisione, come La Smorfia, come Verdone stesso, come I Giancattivi, I Gatti di Vicolo Miracoli, la trasmissione era non stop. Lì ci fu veramente un'imbarcata alla fine degli 70. La Smorfia. La Smorfia, andai a vederli a San Giorgio a Cremano, perché io facevo scouting, come si dice. Come si dovrebbe fare, e non fa nessuno. Nessuno più. Si guarda i direttori di rete se sanno chi è o chi non è chi. Io andavo a cercarmeli e mi dicevano c'è uno bravo, qualcuno lo conoscevo, Beruschi lo conoscevo perché venne al villaggio dove io facevo l'animatore. Tu facevi l'animatore, e lo vidi e vidi che era bravo. I Gatti di uguale. I Gatti erano Ninni Salerno, Umberto Smaila, che avevano dei testi Franco, un po' Gerry Calà e Franco Pini. Avevano dei testi molto sofisticati, i Gatti. Sì, avevano anche un bel repertorio. Infatti io poi scrissi il programma e anche i testi di chi non ne aveva, però in realtà i Gatti ce li avevano, Messeri ce li aveva, Beruschi non aveva una riga, no, Beruschi faceva il ragioniere veramente, e lavorava alla Galbusera biscotti, faceva il ragioniere là. E quindi era tutto da scrivere. E la Smorfia, quando andasti a vederli a la Smorfia, andai a vedere a San Giorgio Cremano, si chiamavano i Saraceni. Ah, non era ancora no, la Smorfia, io poi gli suggerì di cambiare nome, che Saraceni era un po' troppo Magna Grecia, e venne fuori questa Smorfia che era carino. E loro avevano un repertorio discreto, solo che la Rai glieli bocciò tutti. Quando a Torino cominciamo a registrare, a Roma volevano poi vedere, no? Glieli bocciarono i testi. Dissero: ma come? L'Annunciazione? Quello vestito da Madonna con l'angelo, per carità, e lo cancellavano. Poi c'era il matto, quello che parlava con Dio, no? Sì, bellissimo. Hai fatto buono tutto, all'ippopotamo ti è venuto bene, no? Bellissimo. Pure quello l'hanno cancellato. Ma quando l'hanno mandato in onda l'Annunciazione? Successivamente, in altre trasmissioni, quando sono diventati famosi, e anche insomma. L'Annunciazione non andò in diretta? No, non stop. No, assolutamente. Ma né l'Arca di Noè, né niente. No. Oh, i Minolli, andò San Gennaro, che quella disse: vabbè, San Gennaro era un santo, era stato appena declassato. Sì, era un santo di serie B. Dice: vabbè. E poi lui in realtà San Gennaro non c'entrava niente. Era ma così bigotti, la Rai era bigotta, veramente. Era bigotta. Non eri sposato, ti cacciavano via. Sei il figlio. Personaggi famosissimi che adesso non ci lavorano più in Rai. Insomma, per quel motivo, persone che come poi, Walter Chiari, Scansati, Lelio Luttazzi. Ma che scherzi, Tognazzi e Vianello. Ma toccare la religione comunque diventa. A me mi hanno cassato una battuta che ve la dico, che era misera. A parte che c'era la cosa della pasta, la pasta del capitano, dice: pasta del Vaticano, ma l'alito non fa il monaco e piace interno di tutta Bogotà. Era una battuta così. Non, l'alito non fa il monaco. L'alito non fa il monaco. E no, hanno cassato. Magari doveva essere sottotitolato. Se devono cassare, non poteva aprire in bocca, st'uomo. Santa miseria. Anche Pino De Cassate, tante quelle, ringraziando il cielo pure. Ecco, il mio punto di riferimento è Magalli, perché io ogni volta che faccio una trasmissione come ospite il Costanzo Show, Giancarlo pure lo sa, io non mi preparo niente, io vado lì, mi serve d'allenamento, cioè allenamento. Vado ed è la cosa più bella del mondo, perché poi trovi la sincerità di certe battute, la costruzione, come se ti prepari prima un discorso, poi quello ti cambia una virgola e tu non sai più come rispondere. Invece in certe situazioni di talk, per Giancarlo è l'ospite per antonomasia. Sì. Esatto. Con lui fai la puntata. Ecco, a parte oggi che è una situazione anomala, sì. Però con lui fa la puta, nanno, io sto dietro, ma quando vieni? Poi vabbè, si scorda, vabbè. Se ne va, non si vabbè, sa. Parliamo ma un po' perché? Di me adesso. Esatto, parliamo un po' di me. Devo parlare di te, di Salvatore. Basta parlare di te, parliamo un po'. Che ne pensi di me? Io mi salvai così. Che ne pensi? È quella Groucho Marx. Senti, ma parliamo ancora di doppiaggio, caro Magalli. Ah sì? Perché poi hai portato in quest'altra cosa epocale, che è il libro della giungla. Esatto. Che poi non è uno scimmione, quello è Re Luigi. Re Luigi però è un gigantopiteco, una scimmia di 40 metri. Sì, è diverso, fa un po' paura. Fa paura, sì, c'è un po' gotico il film, però bellissimo. E essendo passati 20 anni dal primo doppiaggio, esatto. La Disney ha detto vabbè, fammi un altro paparaccio. Esatto, ma perché poi con la Disney tu non puoi doppiare più di un protagonista. O hai fortuna, meno... tipo Frizzi che ha fatto Toy Story e poi ne hanno fatti 4. Esatto, l'ha doppiati tutti. Esatto. Rimani ancorato a quel personaggio. Sì, tu punto. Firmi i contratti eterni per quella, cioè no, proprio firmi una carta a parte che sono Eternal Rights. No. È scritto, sembra proprio un contratto col diavolo. Tu devi firmare che i tuoi figli, i figli i tuoi figli non avranno nulla a che pretendere di soldi in più rispetto a quello che ti è stato già dato se faranno i pupazzetti con la voce di papà o di nonno. Insomma, è anche un rapporto di esclusività enorme. Sì, sì. È anche abbastanza difficile di fare due film della Disney a distanza di 20 anni, però è capitato. Però questa è in carne d'ossa, eccetera. Pure io faccio Pocahontas, poi passano tanti anni prima di Cars. Perché beh, poi è completamente diverso da diciamo dall'originale. L'ho visto poco sera fa, sì, perché in replica io l'ho visto con mio figlio reti. Piccolino perché non si pagava è rimasto così. Salvatore è rimasto asmatico. Guarda, sono andato a sbuffo quando hanno fatto sono asmatico. Sono andato, diciamo così, a scrocco quando c'è stata l'anteprima e poi me lo sono rivisto adesso a gratis in una delle repliche. Io almeno c'ho a casa. Che cos'è? Ah, lo Scarpanti. Ah, a proposito di voci, quindi... prossimamente lo Scarpantibus. Ma chi è? Non lo so. Cari amici dei Fantastici, mi fai Scarpantibus con quello dei Buoncompagni. Lo faceva Giorgio Bragardi. Giorgio Bragardi. Bisognerebbe chiamarlo Giorgio. C'è. Come no? Come Giorgio lo faceva ad alto gradimento. Sì, ad alto gradimento. Tu pure hai cominciato con la radio con Bandiera Gialla, se non sbaglio. La radio l'ho cominciata, no, con un programma precedente che si chiamava Io e il mio amico Osvaldo, con Renzo Nissim. Era un programma musicale dove lui faceva il conservatore, quello che amava la musica. 2000 cose, amico mio. Io facevo quello che amava il rock. Vabbè, una stupidaggine. Però poi hai collaborato con Arbore Buoncompagni a Bandiera Gialla. Sì, poi abbiamo fatto Bandiera Gialla, dove io facevo l'imitatore, poi fra l'altro Bandiera Gialla. Ma tu sei sempre stato, tu e poi con Pippo Franco a teatro tantissimo. Sì. Con Pippo Franco 13 anni, tutto quello che ha fatto, film, commedia, radio, televisione, Bagaglino, terze parti del Bagaglino. Le canzoni? Quelle canzoni? Canzoni, io ho fatto un album con Pippo, però era dopo quelle... Arachiri, quelle sì, dopo Arachiri, si chiamava Bad Day, dove c'erano canzoni carine. Ma gli scherzi era... stupidi l'hai scritta sì, te? Sì, scherzi stupidi è mia. Non fa sempre scherzi stupidi. Sta fa sempre scherzi stupidi. Tu come stai a fare sempre scherzi? E c'è questo che era l'amante della moglie, in pratica, che cerca di ammazzarlo e lui vede la cosa come uno scherzo. Siamo andati in barca, siamo in barca. A un certo punto mi fa: hai visto lo squalo? E io dico: no, non ce vado al cinema. Mi ha dato una botta, mi ha spinto in acqua a mezzo di squali. Sta fai scherzi su. Era questo perché ci facevamo un disco con la canzone. Vabbè. Siete fantastici, mi fate tanta compagnia, ma non sbagliate gli accenti dei nomi greci, mi raccomando, dice Lucetta. Ma abbiamo Filotte. No, perché Filotte o Filottete. Ma dipende se ti rendi conto? Vedi che non posso sbagliare. Perché dipende, no, ma in realtà sono tutte e due corretti. Dipende se c'è l'accentazione latina o quella greca. Benissimo. Se quella greca è Filottete. Hai visto? Boddie che è un selvaggio che è nata a Smara. No. Diglielo. Ma che scherzo, da quando si è levato l'osso? L'osso è come da quando si è levato l'osso? Parla benissimo. Ma no, è tremendo. Devo dire che anche Rachele dall'altra parte del vetro aveva preannunciato. Lei mi fa bella figura ogni tanto. Come i miei autori, ma tu mi hai anticipato purtroppo. Stavo dicendola io questa cosa, ma perché me l'hanno suggerita, Salvatore. Me l'aveva suggerita, io non avrei mai detto ovviamente la fonte di tutto questo. Senti, stiamo per andare in pubblicità, però facciamo tempo. Quanto dura? No, il libro della giungla dura un po', per cui vogliamo giocarcelo. Io me la giocherei nell'ultimo blocco prima del collegamento con Maina Gioia, perché dopo c'è un collegamento con la trasmissione dopo, che è tutti convocati. Capuano, Pardo, eccetera, e ci dice i risultati, siccome ogni volta che parla della squadra mia è mai una gioia, però è cambiato quest'anno, devo dire, dal primo gennaio, quando abbiamo ricominciato, solo buone notizie. Hai delle notizie tu, Salvatore, per ma caso, guarda, le notizie, io ho delle notizie riguardanti soprattutto gli allevatori per le quote latte. C'è stato, chiedo, una riunione sindacale della CGL, CIS, WIL, FION, Fiodana Gnotta e gli autoferrotramvati, ma qui Gatta Cicobas per il Gentilone. Gli allevatori potranno essere rimborsati con le carte di credito, per i trattori via card, per i fattori credit card, per gli allevatori di vacche vacca carde non te pago. Questa è un'edizione, se l'edizione avrà rotta stabanza ti ripasso la linea. Questa. Poi c'è stata una notizia invece legata alle questioni di costume. Secondo un'indagine dell'Oxa, demoscopea, demoscopata, demo ballata, demo cantata, demo toccacche, demo fatte, di freno, il profilattico ritardante di Rita Pavone. Questo è questo è fondamentale. Teddy Reno è d'accordo. Teddy Freno l'hanno chiamato così. Teddy Reno quanti anni ha adesso? Tutti? Tutti. Lui lì. Non ne può più compiere. Non ne può più comprare nessuno. L'ha finiti tutti, quindi no, aspettando. Noi gli diamo, ora sarà una notizia che il povero Teddy se ne va, è colpa nostra. Carino, non li può più festeggiare perché purtroppo i pompieri sono anni che non gli danno il permesso di accendere i candelini. Quindi. Oddio, che hai detto? Meconi, hai sentito? Non ti ho visto esultare. Non gli danno più il permesso i pompieri per le candeline. Per accendere le candeline è considerato rogo. No, vabbè, non è. Non se ne può, va bene. Noi andiamo in pubblicità ugualmente e ci vediamo, ti rendi conto? Ci sentiamo fra pochissimo con voi, Sanate, non trovo più manco le parole. Restate con noi. No, così. Sarà peggio per voi. No, ma non devi fare, ma non è una radio a mezzanotte, la radio del stalker, no. Morbido. Io facevo un programma che si chiamava Radio Rimorchio, era fatto no, una radio privata, una radio privata. E facevi il mollicone tu o facevi incontrare gli altri? No, io me le invitavo in radio. Ma sei una cosa brutta, Magalli, a tra pochissimo, vuoi Sanatomi? Sanatomi. Eccoci di ritorno. Magalli ci stava raccontando com'era la radio tantissimi anni fa, che c'era l'annunciatrice al fianco con il gong, addirittura con il gong che dava l'intervallo della pubblicità, e con quelle voci meravigliose leggevano Radio Rai, sempre parliamo della Rai. Sì, parliamo della Rai. Allora c'era solo quella, certo. Non c'era allora manco l'Australia, avevano scoperto. E la cosa meravigliosa è che queste annunciatrici, noi conoscevamo dalla voce stupenda, stavano in ciabatte perché chi le vedeva? No, è la radio, quindi c'erano i bigodini, le pantofole. Radio Rimorchio, fantastico, siete diverso. Troppo simpatici, qualcuno sta esaltando la tua radio. La radio Rimorchio era bellissima, diceva, ci facciamo portare da mangiare. Qualcuno dice che palle con questi precisini degli accenti, vabbè, ma ci sta, ci sta anche giusto, quello. È giusto. Oddio, quella cosa più venduta nel Qatar, lo sciroppo per la tosse. Ci stanno loro che cercano di inserirsi con le battute, capito? Il Qatar. Grazie Francesca dei complimenti e grazie a tutti per volerci veramente così bene. Ogni tanto qualche cosa brutta io la leggo, anche se Mauro Meconi dice non li devi leggere i messaggi cattivi, invece io li leggo. Perché no, fanno parte, non ci stanno, cioè, quando della capito, vita sei cattivo, sei intelligente, perché noi adesso sui blog tutti si travestono da critici, tu sei bello, tu sei bravo, tu sei brutto, non vali niente, cioè, vale tutto. Se c'è una costruzione legittima si fa. Allora sentiamoci questo libro della giungla, abbiamo ma due non momenti. L'hai detto quello brutto, hai detto non ci stanno. No, io apri qui, lo dico ogni puntata, con un messaggio, primo messaggio della 24 due anni fa, che bello, Pino Insegno la domenica su Radio 24, finalmente posso fare le pulizie di casa visto che l'aspirapolvere c'ha la stessa voce tua. Questo è stato il buongiorno, benvenuto a Radio 24. Ma io la dico sempre, sono orgoglioso perché fa ridere ed era bella. Sa, pensava veramente tanto di cappello. Non è un insulto. No, ci sta. E poi è vero. Ma sta zitto! È vero. Sono due momenti, Alessandro? Due pezzetti attaccati e la canzone, perché hai pure cantato Voglio essere come canto te. Canto come un usignuolo. Mamma mia, vai, sentiamoli. Sei un cucciolo d'uomo che vuole vivere nella giungla? E tu come lo sai? Ragazzo, io ho orecchie, le mie orecchie hanno orecchie. Tu vuoi vivere qui? Ti serve un popolo che ti protegga. Solo io riuscirò a proteggerti e lo farò per un prezzo. Io ho cibo in abbondanza, infiniti tesori, comando nutrite legioni. Ma c'è una cosa che non ho, ed è l'unica cosa che tu sei in grado di darmi. Io sono qui nella giungla ormai una personalità. ma mai qua giù varrò di più, e questo poco mi va. Io voglio diventare uomo, e andando giù in città, sentirmi fra i miei simili, sono stufo di stare qua. Oh, yubidu, io voglio essere come te, parlare e ragionare come te, te, ti mostrerò, oh, oh, che imparerò, oh, oh, e poi come sarò come te, come te. È difficile, questo è uno swing. Non solo è difficile, ma gli americani, altro perché li citiamo sempre come esempio di perfezione, hanno mandato il filmato senza la base. Come senza la base? Non solo c'era lui. La base. E come l'hai fatto? Con Brancucci impazzito. Con Brancucci che è straordinario, bravissimo. Con le figlie, bravissimi. L'abbiamo doppiato sulla canzone? Colonna. Sulla colonna, quindi c'era un po' di base, ma c'erano le scimmie che urlavano. Certo. Quindi non è stato facilissimo. No, gli americani fanno così, vanno i precisi, ma poi ti mandano un film senza colonna internazionale, senza la base. Poi, sappiamo, alla fine l'abbiamo fatto. Bianco e nero, con le bande che ti passano davanti. Dice, mazza, che bravi doppiatori, ma noi dobbiamo a certe volte a culo veramente, perché non vediamo le facce. Si chiama così in gergo. Sì, in gergo si chiama così, perché non vedi più le facce. E noi il Trono delle Spade, io non so che leggo HBO, quello leggo. Sì. No, certo, vedi, bianco e nero, HBO in tre dimensioni, certo. E dietro in fondo quello che parla, ma vedi, lo intuisci. Certo, che è abituato, che hanno paura, non puoi portare il telefonino lì perché no, se racconti che lo spoiler, ha detto lei farebbe lo spoiler, ho fatto no, io ho un coupé, ma non credo fa lo spoiler, boh, ho capito dopo che lo spoiler quando se racconti in giro. Ma lui ha avvantaggiato, Tupino si è avvantaggiato perché viene un po' anche, sa, hai doppiato parecchi porno, quindi lì era sì, esatto, la stravata, ha messo tutti eiaculazione lì da diciamo Tiffany. Che insomma lo spoiler quello è importante perché sennò lì la trama diciamo è secondaria, troppa trama. Che abbiamo Capuano? C'è Capuano in linea? Vabbè, come no, così lo facciamo. Come no. Eccoci qua. Ecco Capuano, tu parli come Salvatore Marino, che non si capisce veramente niente. Bene. No, sei bravo. Ti presento Giancarlo Magalli, ti presento Salvatore Marino, ciao, il nostro amico Capuano. Vi saluto. Che è mai una gioia, ma dal 1 gennaio ha cambiato atteggiamento nei miei confronti e sta andando verso delle direzioni positive, io credo. Raccontami allora, come sta succedendo questa domenica. Ti racconto allora che l'Atalanta sta vincendo, scusa, la Lazio sta vincendo 2-1 sull'Atalanta. L'ho fatta apposta. Così tanto, dimmi che perde la Lazio, che continua a dirlo anche se non è vero. Capito? No, sta vincendo 2-1. Ma quanto manca alla fine, scusami? Manca un paio di minuti più tempo di recupero. È una partita bellissima, ma dai, davvero una partita stasera. Forse la più bella di questo pomeriggio per come hanno giocato. Beh, due grandi squadre, vinceva l'Atalanta 1-0, gol di Petagna, sì. Poi Milinkovic-Savic, finale di primo tempo, poi Immobile su calcio di rigore, c'era assolutamente, espulsi sia Simone Inzaghi che Gasperini per proteste. Però una bella partita, due bella belle squadre. Bene, grazie. Poi ha vinto la Roma 1-0 a Udine. Non riusciamo a raggiungere. Partita finita, ha deciso un gol di Nainggolan nei primi 10 minuti. È stato il pomeriggio di Dzeko, ha sparato un rigore sulle stelle, ha sbagliato un altro paio di gol. C'è Mauro Meconi che sta facendo dei gesti. Ha tenuto aperta la partita, oltre a quello che doveva essere. Ha fatto una cosa brutta. Sì. Poi c'è il Napoli che sta chiudendo sul 3-0 con il Pescara, ha sofferto un tempo. Poi Tonelli, Hamsik e Mertens, 0-0 Sampdoria-Empoli. È distrutto, non c'ha nessuno. Otto, parlavo con Oddo l'altra sera quando ho dato dei premi a Pescara. Era disperato, cioè hanno 8 difensori su 7 che stanno fuori squadra per infortuni vari, insomma, sì, poi non riesce a recuperare. Poi c'è la Coppa d'Africa di mezzo. Quindi che c'entra? Giochi te? No, però insomma c'è parecchia. Pure lì parecchi amici tuoi. Sì, tutti i giocatori pagati in nero. Esatto. Tu te lo tieni in trasmissione nonostante c'è la Coppa d'Africa, sto periodo dovrebbe stare Salvatore. Ma vai, sai, a me lo sai che il calcio io. No, tu te ne frega niente, infatti. Sono proprio come un vegetariano alla fiera della salsiccia. Vabbè, Capuano, poi che succede a parte Napoli? Che Sampdoria Empoli sono in tempo di recupero sullo 0-0 e l'Empoli nel primo tempo ha sbagliato un calcio di rigore anche con Michelizze, anzi qui c'è una grande parata di Pugioni da sottolineare, meno male, perché non sempre i rigori sono sbagliati, qualche volta c'è anche il portiere che fa il numero. E poi è finita Sassuolo-Palermo 4-1, vinceva 1-0 il Palermo con Quaison, poi c'è stata la rimonta del Sassuolo con doppietta di Matri, gol di Ragusa e Politano. E a proposito di Pescara e dintorni, insomma Pescara, Crotone e Palermo sembrano davvero lontanissimi, destinate anche solo dall'ipotesi di potersi salvare. Eccolo lì. Allora, amico mio, niente, allora ti do un in bocca al lupo. Calcio d'angolo per l'Atalanta, io. Ma però sì, rimaniamo. La Roma ha finito perché Megoni ha alzato il braccio, lui si scorda di essere autore di questa trasmissione, gioca la Roma e so siamo persi. Vabbè, ma è un calcio d'angolo, sì, non è successo niente, Capuano? No, libera la difesa della Lazio, resta però avanti l'Atalanta che sta assediando l'area della Lazio. Attacca prima tu. Attacca prima tu. Attacca prima tu. Non roviniamo sta nuova tendenza, Capuano. Allora attacchiamo, dai. Attacchiamo. Stiamo lì con questi 2 minuti e mezzo appesi. Buona trasmissione, Capuano, a te e a tutti i colleghi. A settimana prossima, ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. E allora, signori, siamo arrivati alla fine di questa, di questo bello appuntamento. Dico bello perché io mi diverto. Se mi diverto io vuol dire che anche la gente a casa si diverte. Se Giancarlo quando presenta la trasmissione si è divertito vuol dire che è andata bene. Non c'è bisogno neanche di testare e tastare il polso alle persone perché te ne accorgi. Quando Salvatore Marino ti accorgi che il cameraman ride vuol dire che anche a casa se la sono fatta doppia. Esatto. Perché non sono abituato. Io ringrazio Alessandro come sempre dall'altra parte del vetro, puntuale come sempre con tutte le sue... Puntuale è la cosa più giusta che quando fanno i critici, no? Puntuale nella interpretazione, che puntuale grazie a Rachele, anche lei molto puntuale su tutto. Ringrazio Alessia Navarro che ha inventato questo format e coordina questa banda di autori che sono due, fanno tutto loro. Mauro Megoni, che ringrazio sia come amico che come grande professionista. Non è una banda larga, diciamo. No, sono in due e fanno veramente un grandissimo lavoro. Io sono soltanto un veicolo tridimensionale di quello che loro costruiscono. È bella questa cosa, il veicolo tridimensionale. È bella. Questa è lei. Un po' un'ambulanza. Chiudiamo bene. Ringrazio anche Milano per la messa in onda e tutto quello che fanno per noi. Buona trasmissione con Capuano e compagni. Grazie, Salvatore. Grazie Marino, a te, Pino. Un saluto ai gentili radioascoltatori. Che bello, gentili. Magari hai una cosa bella da dire, buona? Ma no, casomai se mi viene in mente te la scrivo. Ti dico soltanto e poi chiudiamo perché siamo arrivati. No, quando in questa la dico sempre quando vado in televisione, questo con Giancarlo, dissi una volta disgraziatamente in diretta, anche a Domani Sposi lui fece una cosa brutta e cattiva, c'erano tutti i genetisti che parlavano dei figli eccetera, lui prima di presentare noi disse ecco se le loro mamme e i loro genitori avessero fatto questo test loro non sarebbero qui la premiata dita. Questa fu una presentazione fra le più buone. Un giorno disse a Magalli, visto che Ciufoli c'ha un bel fisico, ho detto tu pensa a Giancarlo, la faccia mia e il corpo di Ciufoli stavamo a Hollywood, e lui ha detto sì ma il corpo tuo, la faccia di Ciufoli stava dal circo. Questa fu un'altra cosa carina, deliziosa che disse in diretta, per questo io lo amo, lo però amo ti ho tutto. Temprato sì, ho tu temprato. Io ti ringrazierò per sempre, sei un mio punto di riferimento, vi voglio bene, ci sentiamo domenica prossima qui con altri ospiti, non ci sarà meglio, Magalli sì bene. No meglio no, sono sempre belli. A domenica, grazie. Bianchi soprattutto, bianchi dai.